Si cambia il contesto, ma la modalità è sempre la stessa, nel senso che noi andremo lì al confine e poi ci recheremo anche in Ucraina per portare in Italia di fatto persone che stanno cercando di fuggire da, in questo caso, dalla guerra, dall'invasione del loro paese, come nel Mediterraneo tentano di scappare dalle torture in Libia e dai loro vari paesi dove comunque subiscono qualsiasi tipo di sopruso. Voi appunto andrete al confine tra Polonia e Ucraina, giusto? Esatto, nella città di Medica. È uno dei contesti, diciamo, dove si sta registrando in questi giorni un maggior afflusso anche di persone che tentano di scappare. Sì, esatto, esatto. Infatti stiamo andando lì per questo. Già si sono recati là alcuni dei nostri attivisti per capire un po' com'è la situazione. Da quel che so, c'è una buona organizzazione di tutte le persone che poi vogliono andare nei vari paesi d'Europa. Abbiamo già preso contatto con delle famiglie che si trovano là e che vogliono ricongiungersi con i propri parenti, familiari, amici che sono già qua in Italia. E quindi noi semplicemente gli diamo un passaggio, gli facilitiamo questo viaggio verso l'Italia. Come funzionerà? Ho visto che avete una sorta di flotta di autobus. Sì, è una carovana di fatto di pullman e di van. Alcuni partono da Napoli, partiranno anche da Roma, da Milano, da Venezia, forse anche da Brescia. Si ritroveranno tutti mercoledì pomeriggio a Bologna e poi insieme partiranno alla volta della Polonia. La cosa che voi dite, che insomma invece abbiamo visto in questi giorni ripresentare anche le contraddizioni europee, che voi non farete distinzione tra le persone che aiuterete. Assolutamente no, come non l'abbiamo mai fatto, come per noi ogni essere umano vale allo stesso modo, ed è una cosa che abbiamo sempre concretizzato nel Mediterraneo. Allo stesso modo, al confine fra Polonia e Ucraina, non ci concentreremo solo sui profughi di cittadinanza ucraina, ma chiunque stia tentando di scappare da quel paese, indipendentemente dall'etnia, dal colore della pelle, dalla cittadinanza, da qualsiasi altra caratteristica, insomma. Ho visto che avete aperto anche una raccolta di fondi per sostenere questa missione. Sì, esatto, il link si trova sul nostro sito, sulle nostre pagine social. Di fatto è per finanziare questa missione, perché comunque, come sappiamo, le spese di trasporto sono estremamente elevate, soprattutto in questo periodo. Poi è stata fatta una grande raccolta di cibo, di vestiti, di farmaci soprattutto. In particolare ci tengo a dire che gli specializzandi di Bologna, qui dell'università, delle scuole di specializzazione di Bologna, stanno facendo una grande raccolta di farmaci che poi consegneremo mercoledì pomeriggio a Bologna e partiranno con la carovana. Porterete in là aiuti e riporterete indietro persone che scappano. Esatto, esattamente, sì. Siete in contatto poi anche con le autorità anche italiane per appunto poi quando ritornerete in Italia per la distribuzione di queste persone? Sì, ci sono i vari comuni che si sono già resi disponibili o che comunque hanno aderito alla nostra missione e quindi sono pronti ad accogliere le persone che porteremo in Italia. Dopodiché seguiranno, no, il percorso che stanno seguendo un po' tutti: accoglienza nelle varie famiglie, verranno tutti registrati ovviamente alla prefettura, seguiranno tutte le procedure di quarantena o test anti-Covid che sono previste, quindi poi le modalità saranno quelle che valgono bene o male per tutti, con la differenza che comunque anche noi attivisti di Mediterranea, tanti si sono resi disponibili ad ospitare nelle varie città, ma anche i comuni e le diocesi stesse si sono attivate per questa cosa.